Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di nuovo del mercato italiano del lavoro, i dati dell'Istat a questo punto definitivi sul 2013. C'è però un leggerissimo miglioramento nella disoccupazione giovanile anche in Italia. E meglio anche la disoccupazione complessiva in leggerissimo calo e anche leggermente meglio la parte giovanile. Dicevo, 12,7% la disoccupazione nel mese di dicembre, però vediamo di capirci, siamo per un decimale sotto il record storico di novembre al 12,8%, e per quello che riguarda la parte giovanile al 41,6%, anche qui un meno 0,1% rispetto a novembre. Insomma, siamo sempre a livelli record, ahimè. Sono però 100.000 giovani occupati in meno nell'ultimo anno. E Letta dice, insomma, c'è un miglioramento, il lavoro resta una priorità. Io andrei molto molto cauto sul miglioramento. Parleremo anche del ritardo nei pagamenti, perché l'Italia, il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese d'Italia, è la maglia nera, lo afferma l'Unione Europea, è il paese più lento nel pagare le imprese, una media di 170 giorni, pensate che in Europa la media è di 61 giorni, e tra l'altro siamo oltre il 140 giorni, che è il limite. Siamo di 140 giorni oltre il limite posto dal decreto sui tempi di pagamento, un decreto che recepiva la direttiva europea e diceva entro 30 giorni devi pagare. Qui siamo proprio distantissimi. I dati sono della Confartigianato, ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda gli oneri impropri sulle imprese per il ritardo di pagamenti, siamo a 2 miliardi e 100 milioni italiani milioni di euro. Perché chiaramente quando tu paghi in ritardo per l'impresa, questo significa anche un ulteriore onere finanziario, quindi oltre il danno anche la beffa. Per quello che riguarda invece la borsa, siamo a un calo dello 0,40% su Milano, ma anche su Parigi. Francoforte perde di più, perde lo 0,90%, Londra pure lo 0,90%, l'America meno 0,80%, in recupero Ferragamo oggi più 3,5% e Intesa San Paolo più 1,70%, Iux più 0,60% come Tenaris. Invece di nuovo debole CNH Industrial, quindi Case New Holland meno 2,40%, gruppo Fiat come titolo perde l'1,20%, Exor lo 0,90%, negativa anche Finmeccanica del 2%, Ubibanca dell'1,30% come Autogrill, le generali perdono l'1,1%, e Telecom lo 0,90%, poco mossi oggi i titoli, segnalo anche Eni meno 0,80% come Saipem e Unipol. Sai, euro a quota 1,35 secchi nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Visto che parliamo di lavoro, del non lavoro in Italia, è interessante invece notare quanto avviene in America con quel discorso sullo Stato dell'Unione, devo dire molto alto, poi vedremo se avrà anche delle conseguenze pratiche, ma molto alto da parte di Barack Obama. Se ne sente un po' la mancanza qui da noi, di discorsi e di visioni un po' più alte rispetto al contingente. Comunque, per combattere la disoccupazione di lungo periodo, ha spiegato sempre Barack Obama alla CNN, l'idea è di mettere assieme 300 tra le più grandi aziende del paese e alcune soprattutto le 50 più grandi, e arrivare a un patto con le grandi imprese sul lavoro. per regole che non discriminino i disoccupati di lunga durata, quindi un patto che va dall'Apple alla Ford. Scende la disoccupazione in Giappone per il terzo anno di fila, e quindi la ricetta della Abe Economics, anche lì, che ricorda molto quella americana ed è molto diversa da quella tedesca che domina in Europa, sta portando dei risultati sul fronte occupazione. Sono calati al 3,7% i disoccupati in Giappone, dal 4% precedente, siamo ai minimi da 6 anni a questa parte. Nel frattempo, come segnala il Financial Times, c'è una vera e propria fuga degli investitori dai mercati emergenti. Sono usciti questa settimana 6,3 miliardi di dollari dai fondi, come effetto da un lato del tapering, quindi della riduzione di stampaggio di moneta in America, ma anche delle tensioni causate anche da questo, ma non solo, in Argentina, Sudafrica, Turchia, sulle valute locali. Lo dico perché quando tu hai una valuta così, diciamo, debole, sei sottoposto a tutte le bizze dei fondi di investimento. Lo sai anche se hai l'euro o il dollaro, però diciamo in quel caso sei veramente un ramoscello. Lo dico perché qua continua la polemica: usciamo dall'euro, torniamo alla lira. Vabbè, il governo danese invece, come pubblica il Sole 24 Ore, anche nell'edizione online, quella di ieri, sta scricchiolando sulla cessione di una quota della utility energetica Dong alla banca d'affari americana Goldman Sachs. È un provvedimento approvato dal governo, ma ha sollevato una vera e propria ondata di proteste. Contestando la decisione, il ministro degli affari sociali e integrazione, che è anche il leader di uno dei tre partiti che compongono la coalizione di governo, ha annunciato l'uscita sua e degli altri 5 ministri socialisti dall'esecutivo di centro-sinistra, che è guidato dalla socialdemocratica Helle Thorning-Schmidt. Cosa succede? La Dong Energy è un po' l'Enel danese. A ottobre il governo ha annunciato un'intesa per cedere il 20% a fondi controllati da Goldman Sachs per poco più di un miliardo di euro, con una clausola che avrebbe concesso alla banca, alla Goldman Sachs, diritti di veto sulla gestione di Dong. E questa è la parte più polemica, perché nessun altro azionista ha un diritto di veto. È come se entrasse un azionista in Enel con diritti di veto, cioè con diritti più importanti rispetto agli altri azionisti. Ci siamo molto occupati di Svizzera per quello che vorrebbe essere l'accordo della Svizzera con l'Italia, ma ieri il ministro Saccomanni, devo dire in maniera molto netta, ha detto che il decreto del governo, la legge del governo, non cambierà sul rientro dei capitali dalla Svizzera, o meglio, non è proprio un rientro, è diciamo, il vantaggio nel dichiarare i capitali illecitamente portati in Svizzera. Ma ci occupiamo di Svizzera oggi anche perché a Lugano, che è la terza piazza finanziaria svizzera, Lugano rischia il fallimento. Addio Lugano bella, si cantava una volta, ma insomma, debiti da un miliardo di franchi, con le banche, sono circa 800 milioni di euro, e il debito pubblico di Lugano è salito in 10 anni del 1255%, da 35 milioni a 450 milioni di euro. La crisi finanziaria ha aggravato la posizione del gettito fiscale delle banche, che è calato del 40%, le banche e le fiduciarie, e quindi adesso si corre ai ripari con un aumento delle imposte del 10% e poi tagli al personale e alla spesa pubblica. Ma pensate che gli amministratori di Lugano sono stati costretti a ricorrere a un prestito alla UBS per pagare le spese e gli stipendi, comprese le tredicesime dei dipendenti, per il 2013. Veniamo all'Italia, lo spread è stabile sui 211 punti, un calo dei rendimenti dei titoli di Stato in generale in tutta Europa dopo i dati che hanno segnalato, e ne parleremo, un rallentamento dell'inflazione nell'Unione Europea. Qui il rischio che l'Unione Europea, più che avere una inflazione bassa, sia completamente in deflazione. Il tasso sui BTP a 10 anni è ai minimi da inizio maggio scorso, è al 3,77%. Il divario tra lo spread spagnolo con il nostro, insomma lo spread spagnolo è ancora un po' più basso del nostro, a 198 punti. In netto calo comunque anche il rendimento dei bonus spagnoli, e il nostro BTP a due anni ha toccato un nuovo minimo storico sul mercato secondario a 0,94%. Questo, ripeto, come conseguenza di un calo generalizzato degli interessi sui titoli di Stato dell'area euro per via dei dati che hanno sull'inflazione, che stanno alimentando tutte le ipotesi per cui la Banca Centrale Europea interverrà ancora per cercare di, diciamo così, pompare i consumi, tenere alta la liquidità, visto che in buona parte d'Europa non si consuma e sappiamo tutti perché. Bisogna ringraziare le politiche, diciamo, del rigore, e quindi i prezzi, invece che stare su quel livello più o meno accettabile del 2% di crescita, sono sotto, e la Banca Centrale Europea ha sempre detto che per lei l'inflazione eccessiva è un problema identico a una inflazione troppo bassa, cioè se tu non sei vicino al 2%, sia che tu sia vicino allo zero o che tu abbia un'inflazione molto alta, non va ugualmente bene per la Banca Centrale dell'area euro. Perché, insomma, il dato di oggi è molto chiaro: 0,7% l'inflazione dell'area dell'Unione Europea 18 nel mese di gennaio, ed è scesa anche rispetto al mese di novembre, e 0,8%, che vuol dire rispetto a un anno prima, è un livello considerato troppo basso di crescita dei prezzi al consumo. Qual è il problema della deflazione? L'abbiamo spiegato molte volte. Se i prezzi sono attesi in calo, si rimandano gli acquisti, ma soprattutto c'è un danno molto grosso per tutti i debitori, perché il valore reale del debito aumenta. Ripeto, se tu hai un debito di 1000 euro e un'inflazione al 3%, dopo un anno quel debito è ancora di 1000 euro, ma vale il 3% in meno come valore reale. Se all'opposto tu avessi una deflazione del 3%, ti ritroveresti dopo un anno con un debito che vale il 3% in più. E quindi inflazione dell'area euro allo 0,7%. La vicenda Mastra Pasqua, e adesso andiamo anche sulla famiglia. Perché ne voglio parlare? Perché da un lato su questo è intervenuto oggi il presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha detto sostanzialmente bisogna accelerare per la legge sul conflitto di interessi, ma anche sulla governance dell'INPS. Cosa vuol dire la governance dell'INPS? Insomma, sono troppe, che siano anche 9 le cariche di Mastra Pasqua, sono troppe, e soprattutto quello che è emerso con il suo ruolo nella vicenda dell'ospedale israelitico, in cui partecipa appunto come carica, è qualcosa che, diciamo, urla, fa gridare al conflitto di interessi. Comunque sentiamo Letta sia sulla governance dell'INPS che sulla legge, sul disegno di legge sul conflitto di interessi. Abbiamo deciso di accelerare un percorso che il ministro Giovannini aveva già iniziato, che era un percorso legato alla nuova governance dell'istituto. Questo percorso, come sapete, è legato alla fusione che c'è stata tra INPS INTAP, c'è bisogno di una nuova governance. Ci eravamo dati il mese di marzo per presentare la nuova governance. A questo punto accelereremo e contiamo di fare la consultazione dei sindacati e delle forze politiche, perché sarà il Parlamento poi ad approvare questa norma, in modo tale che si copra anche qui il vuoto normativo che oggi c'è, perché oggi non c'è la governance nuova della fusione INPS-INTAP. Dobbiamo crearla, e contiamo che questo, dopo questa acceleratissima consultazione che il ministro Giovannini farà con le forze politiche, perché poi deve essere votata dal Parlamento, e con i sindacati, avvenga rapidissimamente nei prossimi giorni. Il disegno di legge è semplicissimo e indica il fatto e la decisione che per il governo, e ovviamente adesso sta al Parlamento decidere, ma sono sicuro che su questo troveremo un'ampia intesa, l'incarico di presidente di un ente pubblico nazionale deve essere fatto in esclusiva, non può essere fatto in regimi di conflitti di interesse. Punto. Questa è la decisione che oggi noi assumiamo. se ne sono accorti finalmente del caso Mastrapasqua. In realtà l'accumulo di poltrone sembra essere un vizio della famiglia Mastrapasqua, perché oltre alle 9 cariche ormai accertate e confermate dal presidente dell'INPS, era bellissima la sua giustificazione in questi mesi, ma io in realtà faccio risparmiare lo Stato perché altrimenti dovrebbero pagarlo altre persone. A parte che mi risulta che con 1.200.000 euro di stipendio anche lei venga pagato per queste cariche, ma poi sulla base di questa logica, perché non diamo tutte le cariche a una persona sola? Tutte le cariche della pubblica amministrazione. Ma dicevo, non c'è solo Mastrapasqua, Antonio Mastrapasqua, c'è anche la moglie, Maria Giovanna Basile, che ha 20 cariche, e qui sarebbe interessante sapere se esista anche una possibilità di conflitto di interesse, visto il ruolo del marito, ed è il fratello di Mastrapasqua, che si chiama Pietro, che ha accumulato negli anni ben 70 cariche, ora ne conserva 13, dunque 13 più 20 fa 33 più 9, oh, qua siamo a 42 cariche nella famiglia, eh? La signora Mastrapasqua siede nel consiglio dei sindaci della RAI fino al 2015 siederà, poi occupa posti nei collegi di due società collegate a Viale Mazzini, Rai Way, Rai Cinema, poi gli incarichi nelle controllate dell'ACI, ACI Global, ACI Infomobility, Inventura, in ACI Vallelunga e Targasis. Poi c'è il prestigioso ruolo nel consiglio sindacale di Acea, la municipalità romana dell'acqua e dell'energia, e diverse cariche nella sanità, nella Santa Chiara Firenze, che si occupa di servizi ospedalieri, nella Giomi RSA, che si occupa di case di cura per lunga degenza, poi cariche nelle aziende più disparate, dall'impiantistica all'immobiliare alla pianificazione aziendale. Il fratello di Mastrapasqua, invece Pietro, è attualmente sindaco sia della S Roma che della S Roma Real Estate, che si occupa del patrimonio della squadra di calcio, patrimonio immobiliare, e poi siede nel collegio sindacale della Imprefidi Lazio, della Marche, della SIA. Però nel passato è stato anche nel collegio sindacale di Ansaldo Energia e sindaco supplente in ACI Mondadori. Poi ha avuto ruoli in Banca Sara, Hospital Service, la assicurativa della Commerce Bank, e insieme alla cognata appunto in ACI Vallelunga. Ma come fanno? Io non lo so, ho difficoltà a fare due cose in un giorno. Nel frattempo la Regione Puglia, Vendola, lei si occupa molto di temi nazionali, fa anche bene, però si occupi anche di temi regionali. La Regione Puglia ha aumentato del 3% i vitalizi di 150 ex consiglieri regionali, riguarda solo i consiglieri già in pensione, perché per chi è attualmente in servizio il vitalizio è abolito. Allora mi dovete spiegare, se da un lato viene abolito il vitalizio, perché bisogna aumentare del 3% i vitalizi degli ex consiglieri regionali? È un privilegio ancora più inspiegabile, visto che l'hai bloccato per quelli attuali. Costerà alla regione 330.000 euro l'anno per i prossimi anni, ogni anno, per cui in 3 anni abbiamo già fatto 1 milione, ed è stato introdotto nel 2010. Doveva riguardare solo gli anni dal 2010 al 2013, però hanno aggiunto una mitica parolina dopo 2010, 2013 e seguenti, con un emendamento, pensate un po', per scrivere e seguenti, eh? Fatto un emendamento per scrivere 2010, 2011, 2012, 2013 e seguenti. Ci spostiamo a Milano, dove è sotto inchiesta la provincia di Milano per l'assunzione di segretari e collaboratori con mensa autistica negli uffici del presidente della provincia e degli assessori. La sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria su alcune voci di spesa nel bilancio della provincia guidata da Guido Podestà, quindi gli anni sono 2011-2012, 5 milioni di euro per contratti a tempo determinato a dipendenti già assunti ed esterni, ritenuti dai giudici contabili eccessivi rispetto ai tetti di spesa previsti dalla legge, e poi anomali perché hanno usato una norma che si dovrebbe usare in realtà solo per l'assunzione di alte figure manageriali. Ora, col massimo rispetto, non è che possiamo far passare i collaboratori, le segretarie, i commessi, gli autisti, un lavoro dignitosissimo, importantissimo, ma come alte figure manageriali. Per queste figure infatti la legge prevede un concorso, un normale concorso pubblico, e invece hanno fatto la chiamata diretta, costo complessivo 5 milioni di euro. Da lì andiamo sul Pirellone. La cifra non è di quelle significative, 280.000 euro. Sto parlando non tanto della regione Lombardia, ma del consiglio regionale lombardo, che è una cosa diversa, che era abituato a sponsorizzare negli anni scorsi, fino con 2 milioni di euro all'anno, a patrocinare sagre, fiere e di tutto. Però sono 280.000 euro rispetto a 2 milioni, quindi bene il fatto che si sia ridotta questa voce di spesa. Certo che andare, voglio dire, a sponsorizzare tra Sacro e Sacromonte, per il Sacromonte di Varese 5.000 euro, la Fiera delle Regine e Reginette di Razza Bruna della Val Brembana, il Festival Internazionale del Folklore in provincia di Varese, gli Stati Generali della Bellezza Italiana, non ci avete invitato, a Sabbioneta e via così, poi l'insalata nell'orto, storie rubate all'agricoltura per bambini curiosi. Sì, qua più che non sono solo le storie essere rubate all'agricoltura, anche le braccia delle volte, se posso aggiungere. E poi ce n'è una bellissima, vabbè, il convegno Evoluzione dell'Ordine Pubblico in Lombardia dal 1968 a oggi, e 3.000 euro anche lì. Poi soldi, uno che mi piace molto è sono i 2.000 euro spesi per la cooperativa sociale Il Sorriso di Porto Ceresio per il festival Sogni all'aria aperta. Sogni all'aria aperta e incubi invece in casa con la situazione che c'è. Andiamo avanti. Però oggi il nostro premio va a due persone. Beh, insomma, intanto la regione Molise. Quanto spende secondo voi il presidente del consiglio Michele Picciano in quota PDL, il presidente del consiglio regionale molisano, in caffè, cialde di caffè, orzo, bottigliette di minerali, in un anno? Quanto si può spendere? Facciamo un sondaggio e poi vi do la risposta dopo. Quanto può spendere un presidente, magari offrendo anche un caffè, ci mancherebbe, agli ospiti, in un anno di cialde di caffè e bottiglie di acqua minerale? In attesa della risposta leggo altre due notizie invece, e cioè la regione Emilia Romagna, perché si è abbattuta un'altra tegola su Viale Aldo Moro. Già la Corte dei Conti ha inviato una pioggia di segnalazioni per diffuse irregolarità nelle spese di 9 gruppi consiliari per l'esercizio 2012. Sul piatto ballano 1.850.000 euro su un budget di 5 milioni, di cui però solo 2.800.000 sarebbero stati effettivamente spesi. Allora, tra l'altro, tutte spese in contrasto con le norme che gli stessi gruppi parlamentari politici della regione Emilia-Romagna si sono date, e quindi l'impossibilità di fare regali, l'obbligo di rigorosa documentazione. Perché? Allora, nella classifica delle presunte irregolarità svetta il PD, 673.000 euro spesi al di fuori dei paletti normativi, 92.000 euro per indagini e ricerche, 90.000 euro per rappresentanza, 86.000 euro di rimborso per i consiglieri, 82.000 in consulenze. Poi il PDL 390.000 euro, anche qui contestati rimborsi, consulenze e spese per rappresentanza. Lega Nord 193.000 euro contestati. E poi anche SEL 126.000 euro, Unità dei Valori 150.000 euro, Federazione della Sinistra 90.000 euro, e anche 5 Stelle vengono contestati 86.000 euro. Allora, in attesa di avere una risposta nel nostro breve sondaggio, quanto può spendere il presidente della regione Molise in un anno per bevande, per le cialde di caffè, orzo e bottiglie di acqua minerale? C'è il metodo, la pubblicità, la borsa ha chiuso invariata, quindi ha recuperato tutto il calo, e poi parleremo anche di borsa, ma purtroppo anche di disoccupazione, perché poi mentre c'è chi ha 42 incarichi in tre, cioè Mastro Pasqua, sua moglie e fratello, c'è chi non ha un lavoro in tre. Allora, intanto intanto devo rispondere al nostro quesito di oggi: quanto può spendere il presidente della regione Molise, presidente del consiglio regionale Molise in quota PDL, non della regione Chiedovenia, mi riferisco a Michele Picciano, indagato per truffa e peculato, perché le spese ingiustificate definite smodate e irrazionali dai magistrati che indagano, oltre 75.000 euro, tra cui tutte spese per attività politiche, ci mancherebbe, 1.000 euro per una lampada da tavolo. Ora, una lampada da tavolo vada nei vari negozi, diciamo, a buon mercato, si porta via anche con 100 euro. Un tappeto color prugna da 2.160 euro, e qui non voglio nemmeno commentare la prugna, la prugna ha tante qualità. 7 quadri utilizzati per rendere gli uffici più presentabili per un totale di 8.000 euro, sempre sui contribuenti molisani e anche italiani. Poi tra l'altro ha donato anche, perché vuol dire, lui ha anche un cuore, perché ha donato 6.000 euro alla come dono della regione alla Onlus Il Buon Samaritano. Dice bene, no? Dopo che hai speso 1.000 euro per la lampada, ne hai spesi 2.100 per il tappeto color prugna e adesso vediamo quanto spendi di caffè, almeno, diciamo, ti pulisci la coscienza con i 6.000 euro al Buon Samaritano. Peccato che il presidente della Onlus Il Buon Samaritano è l'ex segretario personale del presidente del consiglio regionale, appunto, molisano, Michele Picciano del PDL. Quindi il Buon Samaritano praticamente è uno, cioè è l'unica Onlus che, il cui presidente è anche quello che riceve il beneficio. È pazzesca sta cosa. Pensate che nel 2009 per lo scambio di auguri natalizi spende, nota attività anche questa politica fondamentale nel Molise, spende 5.000 euro per gli auguri natalizi come cena. Però siccome poi si rende conto che, insomma, questo non basta, l'anno dopo i buffet da 5.000 euro diventano 3, uno per i consiglieri regionali, uno per i dipendenti e uno per i giornalisti. Non andate ai buffet, lo dico ai colleghi, portatevi la schiscetta da casa. Allora, quanto spende per bevande? Noi abbiamo fatto caffè, cialde e bottigliette di acqua minerale. Allora, mediamente uno lavora 22 giorni al mese, farà un mese di ferie, e quindi abbiamo fatto un calcolo, sarebbero 242 giorni, diciamo 250 giorni. Quanto vuoi spendere di cialde, che costano meno dell'espresso, ma comunque bottigliette d'acqua minerale? 5 euro? Diciamo di più, 10 euro al giorno, e poi stai anche un po' nervoso e sei spesso, diciamo, affetto da vescica incontinente. No, se fosse così, 10 euro al giorno per i 250 giorni, già stiamo volando alti, saremmo a 2.500 euro. Niente da fare, sono più di 6.000 euro solo per le cialde da caffè e le bottigliette d'acqua minerale in un anno per il presidente del consiglio regionale, no, di una regione bellissima, ma voglio dire, Sergio De Nardis, capo economista di Nomisma, buonasera. Buonasera. Adesso lei non chiederò questo, però mentre noi ragioniamo di queste spese, che poi sembrano poche cose, però mettiamole tutte quante assieme e poi vediamo, anche perché qua le spese contestate in questo caso sono 75.000 euro, nella regione Emilia-Romagna sono 1.800.000 euro. Oggi sono usciti i dati sulla disoccupazione, ho visto Letta già dire, beh, c'è un lieve miglioramento. A me sembra che siamo sempre come quello che sta accadendo dal grattacielo, gli chiedono come va e lui risponde fin qua tutto bene, perché cioè, la disoccupazione è al 12,7%, è vero, non è più al 12,8%, resta altissima nei giovani, parlo dell'Italia, al 41,6% e 100.000 occupati in meno. Mi dia una buona notizia e una invece meno buona. Ma guardi, penso che posso dare una delle due cose che mi chiede, cioè la seconda, cioè la meno buona, nel senso che io non vedo in effetti un miglioramento, cioè bisogna, neanche il bicchiere mezzo pieno riesco a vedere, perché anche questa riduzione della disoccupazione riflette il fatto che ci sono meno persone che si presentano per cercare lavoro, quindi è un effetto più negativo. Quindi la situazione non è, diciamo, ci vuole proprio avere una notizia positiva che la mia valutazione è una situazione invariata fondamentalmente, ma in una condizione che è di notevole difficoltà per il mercato del lavoro italiano. Ecco, quindi anche il dato, perché qui va chiarito, gli occupati sono tutti quelli che lavorano tra tutti quelli che potrebbero lavorare. I disoccupati invece, il dato non è che i disoccupati siano i non occupati, perché i disoccupati sono solo quelli che cercano un lavoro e non riescono a trovarlo. Allora, esatto, se ho ben capito, lei dice questo leggerissimo calo nella disoccupazione, sia giovanile sia generale, è dovuto al fatto che sempre meno persone cercano lavoro e quindi risultano sempre meno disoccupati? Sì, sì, per il dato, quest'ultimo dato di dicembre così è, sono diminuite le persone che si presentano, si offrono nel mercato del lavoro, e questo ha un effetto di far vedere che c'è una piccola riduzione sia nel numero di disoccupati sia nel tasso di disoccupazione, ma il punto è che in realtà se ne presentano di meno, quindi probabilmente c'è un effetto anche di scoraggiamento sottostante a questa contrazione. E l'altro elemento è che l'occupazione continua a scivolare un pochino verso il basso, quindi tenga conto che il quarto trimestre probabilmente è il primo trimestre dopo due anni e più in cui il PIL finalmente avrà presumibilmente, auspicabilmente un segno, un piccolo segno più davanti allo zero virgola. E quindi, ecco, mi dica una cosa, voi come nomi, ma siete d'accordo? Perché io continuo a vedere il governo che dice faremo più 1% quest'anno, altri, Ox, Fondo Monetario, ma anche Centro Studi Confindustria dicono no, 0,4-0,6, non è poco, perché è poco la crescita, ma siamo tra, diciamo, un livello o metà di quel livello. Diciamo che le previsioni del governo, anche 1,1 mi sembra proprio l'ultimissimo numero, sono sicuramente sul lato alto delle forchette delle previsioni. Il consenso dei previsori indipendenti si colloca intorno a 0,6% per quest'anno. E questo per quest'anno, ma anche per gli anni successivi, diciamo, il governo mi pare che si spinga verso un 1,7-1,8%, ma mi pare che la crescita, per come stanno andando le cose, date i condizionamenti in cui ci troviamo di politica economica, dobbiamo rientrare nei paletti europei eccetera, ecco, se avremo una crescita dell'1-1,2% all'anno, sarà un fatto positivo, insomma. Quindi lei è più orientato allo 0,6 che all'1? Per quest'anno sì. Mm-hmm. Sì, no, lo dico perché il governo continua a dire, anche Saccomanni, anche il ministro, 1%, 1%. Spero che abbia ragione. Anch'io spero che abbia ragione, tutti speriamo che abbia ragione Saccomanni, che abbia ragione Letta. Però insomma, il problema è che c'è l'ottimismo della volontà, ma anche il pessimismo della ragione in questo caso. Sì, guardi, comunque, che anche 1%. Sì, non è, sì, lo so, no, però piuttosto niente, che niente, meglio piuttosto, De Nardis. Qua abbiamo 0,4 di differenza in più, io ci metterei la firma, ma non si rifiuta da niente. Non si rifiuta da niente. Grazie al capo economista di Nomisma, Sergio De Nardis. Grazie, buonasera. Allora, due risposte, poi andiamo al traffico, alla borsa e anche al giro che sta per partire delle cariche delle società partecipate dallo Stato, e quindi mi riferisco a Enel, Eni, Finmeccanica, e agli sviluppi sulla vicenda d'Italia. Dunque, scrive un molisano che attende dal 90 la ricostruzione della sua casa a Larino. Si rivolga al consiglio regionale, chieda come mai spendevano i soldi in altro modo. E poi invece un ascoltatore dice, ma perché ve la prendete se un consiglio regionale finanzia qualche piccola festa di paese? Ma no, guardi, non ce la prendiamo su questo. Stiamo restando che, vabbè, si potrebbe anche obiettare sul perché i soldi del pubblico vengono utilizzati. Però non è quello, è cosa finanzi, i titoli che dai, cioè no. E poi siamo ancora, è veramente necessario finanziare anche le sagre paesane? Non so, mi chiedo, con questa Italia non c'è altro modo per utilizzare questi soldi? Chiedo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso non posso fare la puntata sulle sagre. Sono d'accordo, è meglio spendere i soldi per una sagra, ridistribuisci un po' di soldi sul territorio. che per i regali, per le cene elettorali, per gli alberghi alle amanti, per i viaggi inutili di regioni che si confrontano con paesi che hanno 30, 40, 50 volte gli abitanti. Sono d'accordo, meglio la sagra, ci mancherebbe, almeno. Però, insomma, però. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata piatta oggi, 0,04% MIBIT invariato, meno 0,30 Parigi, meno 0,70 Francoforte, meno 0,40 Londra, meno 0,70 l'America. Andiamo su due titoli, il resto poi li darò io. Telecom, perché ci sono anche notizie che riguardano il mercato, le dichiarazioni di Fossati su Sawiris e sul governo, che perde lo 0,80%. Dall'altro Ferragamo, che invece è il migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione, più 4,31%. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia, diciamo ieri il titolo era salito dopo le parole di Naguib Sawiris, che si era detto interessato a un possibile investimento in Telecom a patto che sia fatto un aumento di capitale e che non sia venduta a Team Brasil. Diciamo che oggi molti analisti commentano queste parole e tutti scommettono sul fatto che tali dichiarazioni non avranno un seguito concreto, ma alimentano soltanto l'appeal speculativo sul titolo, quindi diciamo che oggi il titolo si è sgonfiato e si è passati a realizzare parte dei guadagni di ieri e ha chiuso in calo dello 0,84%. Ha parlato anche Fossati, come ricordavi tu, di fatto nessuna dichiarazione è capace di impattare il titolo, ha giudicato inopportuno letta sul scopo della rete, ma nulla di rilevante dal punto di vista e della poi ha detto che Sawiris deve comprare sul mercato, cioè, se vuole, non sono necessari, vabbè, insomma, siamo a così alle schermaglie. Invece Ferragamo è stata la migliore di giornata sul FTSE MIB fin dall'avvio, ha chiuso a un passo dai 23 euro a 22,98. Qui sono i conti annunciati ieri, soprattutto la crescita dei ricavi che è piaciuta molto agli investitori, sono dati tutti in rialzo, anche se insomma diciamo che tra gli analisti c'è un po' di cautela sui margini che potrebbero essere stati erosi dal calo della differenza del mix di prezzo nelle vendite, quindi diciamo vendite a prezzi più bassi, ma al momento prevale l'entusiasmo per il fatturato e per i dati di rialzo, così il titolo è salito. Ancora due titoli rapidamente, trimestrale ma con segno completamente diverso per CNH, Case New Holland, la parte Fiat che fa trattori e camion, e invece Banca Profilo fuori dal listino principale. Sì, CNH ha chiuso in calo dell'1,76%, qui sì, sono i conti anche se annunciati ieri, in questo caso i conti sono in linea con le attese, ma sono stati un po' di delusioni soprattutto sulle previsioni 2014, in particolare per quanto riguarda il debito, che è indicato più o meno stabile, tra 1,5 e 1,7 miliardi, gli analisti aspettavano qualcosa di più e quindi oggi il titolo è sceso. È stata invece tra i migliori Banca Profilo, più 8,3%. La banca ha annunciato il nuovo piano industriale al 2016 con dei target che sono piaciuti agli investitori, si parla di un utile superiore a 10 milioni a fine piano e quindi un obiettivo che è piaciuto al mercato. Eh sì, è il miglior titolo assieme a Bastoggi più 19%, Brioschi più 12%, Rete Elite più 10%, anche Gruppo Green Power più 9,70%, Invest meno 7,40%, Cell Therapeutics meno 5%. In generale faccio notare che oltre ai titoli citati c'è Finmeccanica che perde il 2%, Azimut l'1,20%, Autogrill l'1%, Generali pure, Atlantia meno 0,80%, Fiat meno 0,70%, Ubibanca e Saipem meno 0,60%. Tra chi è andato bene invece anche Intesa San Paolo più 2,70%, Iux più 0,90%, come Mediaset e Buzzi Unicem. Grazie e buon fine settimana a Paolo Paronetto e ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi. Adesso parliamo del giro di poltrone, si stanno scaldando le sedie di varie partecipate dello Stato, Poste, Enav, Snam, Terna, Fincantieri, Sace, Grandi Stazioni, Eni, Enel, Finmeccanica. Però Gianni Dragoni, quanto abbiamo? 40 secondi. Gianni, dammi una novità su Alitalia. Ciao Gianni. E poi parliamo. Il tentativo della compagnia, il pressing sui sindacati per chiudere l'accordo sindacale, la ristrutturazione pesante, 1900 esuberi, è saltato perché oggi appunto c'è stato un incontro, ma la questione della cassa a zero ore, almeno per la full CGL, è un ostacolo perché porterebbe probabilmente al licenziamento, quindi il tavolo si è interrotto. Questo vuol dire che anche se non era atteso una, sì, un, diciamo, un accordo finale. Letta va negli Emirati Arabi, dove parlerà anche del discorso di Tiad, ma non vedrà i vertici di Tiad, ne parlerà a livello politico con l'emiro. Sì. Sarà ancora un'incompiuta. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, dicevamo con Gianni Dragoni di Alitalia, quindi nulla di fatto per ora la trattativa sugli esuberi, mentre come ricordava Gianni Dragoni, il premier Letta poi sarà ad Abu Dhabi, dove ha sede la compagnia aerea Etihad, grande concorrente di Emirates, ma soprattutto interessata a entrare in Alitalia. Gianni, dicevi però che a questo punto, visto che sono fermate le trattative in Alitalia, Letta non potrà offrire qualcosa di molto concreto, non incontrerà forse nemmeno i vertici. Sì, lui peraltro oggi il suo consigliere economico Pagani ha detto che non è previsto un incontro con i vertici di Etihad, ma solo incontri a livello, diciamo, politico, nei quali si parlerà di anche della questione all'Italia, come anche di altre questioni industriali che interessano aziende italiane. Quindi ha fatto capire che sarebbe un passaggio ancora così, un livello interlocutorio, e comunque i contatti proseguiranno a livello della compagnia all'Italia. All'inizio della prossima settimana dovrebbe avere degli incontri con Etihad e forse riprenderà anche l'incontro con i sindacati, ci sarà una pausa comunque. Ancora invece veniamo al giro, iniziamo a parlarne adesso, chiaramente la cosa non è in scadenza nei prossimi giorni, però il Ministero dell'Economia ha comunicato oggi che quest'anno saranno rinnovati i vertici tra consigli di amministrazione, collegi sindacali e appunto amministratori delegati e presidenti di 29 gruppi direttamente o indirettamente controllati dal Tesoro. Si tratta, per i consigli di amministrazione che sono in scadenza, di Eni, Enel, Finmeccanica e Steam Microelectronics, poi vertici di due società in procinto di privatizzazione come Poste e Enav, e poi ancora ci sono tutto un insieme di altri vertici, il tutto però nell'ambito dell'operazione di privatizzazione di alcuni asset pubblici da cui il governo intende incassare, perché li ha messi in finanziaria, tra gli 8 e i 10 miliardi. E stiamo parlando del 5% di Cassa Depositi e Prestiti Reti, che controlla il 30% di Snam e controllerà il 30% di Terna, è una stima di incasso di 3,7 miliardi. Poi il 40%, forse 50% di Fincantieri, incasso previsto 600 milioni di euro, il 60% di SACE e la società Grandi Stazioni, altri 400 milioni. Allora, dacci qualche indiscrezione sui vertici, chi dovrebbe essere cambiato e chi confermato? Molto dipenderà da quello che sarà il peso all'interno del PD, se il governo regge, tra Renzi e Letta, perché Letta l'anno scorso ha letto il comandima, credo è stato soprattutto Letta, ha sostanzialmente confermato più del 90% di tutti gli incarichi in scadenza, e c'è da aspettarsi che potrebbe ripetere anche quest'anno questa raffica di conferme. Renzi è più un'incognita, portatore ovviamente di, come slogan, la rottamazione, il rinnovamento, però abbiamo visto che ad esempio pare avere un'ottima intesa anche sul merito dei problemi dell'energia con l'amministratore delegato dell'Eni Scaroni, che è quello che ha la posizione più importante in scadenza e che sembra quindi in questo caso anche in buona posizione per una conferma, ma c'è naturalmente fino ad aprile, quando saranno pubblicate le liste dei candidati, c'è da aspettarsi sempre l'imprevisto. Sulle Poste, guidate da Massimo Sarmi, che ha guadagnato un credito col Presidente del Consiglio accettando, diciamo, in maniera proprio docile di mettere 75 milioni nel piano di salvataggio dell'Alitalia, è la società che peraltro oggetto anch'essa di un inizio di privatizzazione, c'è però l'appetito, un interesse forte anche di altri manager, uno è anche Francesco Caio, l'attuale, diciamo, responsabile della cosiddetta agenda digitale incaricato da Letta, ma incarico che terminerà a fine marzo, a meno che lui lascerà a fine marzo. Finmeccanica, anche se è una società molto importante, il presidente De Gennaro, voluto da Napolitano, potrebbe rimanere, a meno che non venga chiamato. Si parla ogni tanto di possibili incarichi politici, visto che è un prefetto, diciamo, e quindi ex capo della polizia, ha probabilmente anche altre possibilità, ma insomma è tutto uno scenario che, se c'è un effetto domino, basta che si muova una pedina e potrebbe esserci un forte cambiamento. Dipenderà molto dall'effetto Renzi. Allora, per quello che riguarda la privatizzazione, va detto che ci sono altri due pesci grossi. Uno, il più grosso di tutti, è quello Poste Italiane, ne abbiamo parlato a lungo. Lì si attende un incasso della quota collocata in borsa tra i 4 e i 5 miliardi. E l'altro invece è anche l'ENAV, che è la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile e militare. Potrebbe farsi avanti la proposta di F2I, Fondo Infrastrutturale di Gamberale, e l'incasso previsto è 5-600 milioni. In realtà c'è una sovrapposizione temporale in alcuni casi tra privatizzazioni, collocamento in borsa e ricambio dei vertici, ma questo potrebbe, le due cose potrebbero intrecciarsi, o resteranno a tuo avviso due binari, diciamo, paralleli? C'è un accavallamento, probabilmente comunque l'operazione sulle Poste, per quanto già sono cominciati come dire, gli annunci e la fase preparatoria, richiede molti passaggi, difficilmente sarebbe pronta prima dell'inizio estate, alcuni ritengono anche che forse non si farebbe in tempo, quindi le nomine si potrebbero fare entro maggio, quindi le due fasi potrebbero essere tenute ben distinte, forse le nomine verranno fatte tenendo presente anche che le società devono essere collocate sul mercato, quindi è da escludere che le società, che soprattutto quelle che potranno avere un collocamento azionario presso il pubblico, quindi Poste e Fincantieri, venga, se venisse fatto, cioè Fincantieri non è oggetto di nomine in questo caso, ma Poste possa essere fatto magari un cambiamento totale, se fosse proprio un manager del tutto nuovo, se l'operazione di vendita dovesse venire di lì a poche settimane, quindi ci può essere un'influenza, piuttosto quello che invece, visto che andiamo a maggio, influenza che le nomine si andranno un po' a ridosso della campagna elettorale per le europee, quindi questo potrebbe essere un elemento che peserà sulle nomine. E staremo a vedere, appunto, ma sono tanti i dossier aperti. Hai fatto bene a ricordare che però in questi casi, se si, diciamo, si sposta un pezzo del domino, tende a esserci un effetto a catena su tutte le altre nomine. Mastra Pasqua rientra? Mastra Pasqua, a sua insaputa, potremmo dire, per usare un'espressione di moda, è comunque in scadenza di incarico fine anno. Per cui questa situazione mi sembra che quello che ha detto Letta sull'INPS, magari lo facciamo riascoltare dopo il traffico, bisogna accelerare per rifare la governance dell'INPS, a me sembra come una buona uscita. Cioè, mi aspetto un'accelerazione, e siccome già si dice che il governo abbia un candidato che è l'ex ministro del lavoro Treu, ma potrebbe anche esserci qualcun altro, peraltro anche un esperto di quel ramo, credo che sia tutto pronto per un ricambio veloce. Vabbè, tanto gli restano altre 8 cariche. Per cui, più quelle della moglie. Sì, le abbiamo già dette. In tutto, moglie, fratello e Mastra Pasqua, lui mem, fanno 42 cariche. Averne così, con questi dati sulla disoccupazione. Grazie a Gianni Dragoni. Ciao, del Sole 24 Ore. Adesso ci sono le informazioni sul traffico. E poi invece andiamo a fare il punto anche politico, di politica economica, perché questa è stata una settimana che si va a chiudere con la vicenda Electrolux completamente aperta. Fiat ha fatto molto discutere, ma è una vicenda che per alcuni versi si lega, per altri assolutamente no. E poi anche oggi su Sole 24 Ore la lettera del presidente degli industriali Squinzi, che dice: attenzione, qui stiamo rischiando non tanto e non solo sulla vicenda Electrolux, che pure viene citata, ma stiamo rischiando la desertificazione industriale del paese, che a mio avviso è il vero tema al di là delle singole vicende. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, Roma. Roma è sott'acqua, e così come utilizzammo la metafora, la utilizzò Guido Gentili anche su Sole 24 Ore, del treno bloccato in Liguria, che tuttora è bloccata, la linea ferroviaria, di un paese, diciamo, pericolante, che rischiava di sgretolarsi, io userei, diciamo, l'allagamento di Roma. Vedo che gli hashtag su Twitter sono sottomarino, riferendosi al sindaco di Roma. Insomma, per far capire, insomma, in quale situazione si sta muovendo il paese sul fronte del rischio deindustrializzazione. Lettera del presidente di Confindustria Squinzi al premier Letta, oggi su Sole 24 Ore. Dice: attenzione, il governo difende l'industria del paese, il caso Electrolux è un caso emblematico che Confindustria segue con grande apprensione, ma rappresenta un caso emblematico per l'intera industria italiana. Serve una forte azione del governo a difesa dell'industria, altrimenti, in assenza di un'inversione di questo trend, andremo irrimediabilmente verso la desertificazione industriale del nostro paese. Noi abbiamo raccontato anche casi positivi, uno su tutti, Whirlpool, che dalla Svezia viene in provincia di Varese, però è innegabile che questo appello arrivi nel giorno in cui l'Europa ci fa sapere che è pronta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per i tempi di pagamento che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese italiane. Perché se va, se va avanti questa procedura di infrazione, noi dovremo pagare praticamente un'intera IMU per un anno, tra i 3 e i 4 miliardi come multa, ok? Perché rischiamo una multa di migliaia di euro al giorno e più una sanzione di mora pari a un anno di IMU. Che cosa dice infatti l'Europa? Dice che, insomma, noi paghiamo a 170 giorni, i più lenti di tutti, la media europea è di 61 giorni, e comunque l'Italia ha recepito la normativa europea che impone di pagare entro 30 giorni, noi siamo a 140 giorni oltre. L'anno scorso, per l'86% delle piccole imprese, il saldo delle fatture da parte della pubblica amministrazione è avvenuto in media in 140 giorni. Le costruzioni sono il settore più penalizzato. Questo nonostante poi siano andati avanti i pagamenti, sono stati pagati 21 miliardi su 27 promessi, degli arretrati che valgono circa 100 miliardi di euro. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, dal treno che tu utilizzavi a Roma sott'acqua, mi sono permesso di andare avanti con l'immagine figurata, però insomma, quanto possono resistere, perché si lamentano oggi in maniera molto dura anche gli artigiani, quanto possono resistere le associazioni e comunque gli imprenditori di questo paese in assenza di nuove iniziative? Vedo che Saccomanni dice che è addolorato per le falsità, le cattive informazioni, le distorsioni sul decreto IMU Banca Italia. Io l'ho spiegato in tutti i modi che quel decreto rischia di essere un regalo alle banche, non posso tornare sul tema, ma insomma, qui a me sembra che si parli di legge elettorale e va bene, di Mastra Pasqua e va male, di IMU Banca Italia, un decreto, insomma, che è un pasticcio a mio avviso, agganciare la copertura dell'IMU alla rivalutazione del quota della Banca d'Italia, ma dando la possibilità alle banche di cedere alla Banca d'Italia stessa le quote eccedenti se la Banca d'Italia vuole. Ma di politica industriale, a parte il Zanonato, che prima dice Electrolux resterà italiana, poi quando incontra i vertici si accorge che i problemi ci sono e su Porcia la vicenda è tutta aperta, mi sembra che si navighi, per usare la metafora dell'acqua a Roma, molto a vista, no? Sì, molto, molto a vista, e diciamo, purtroppo le bombe d'acqua incombono, e quindi ne abbiamo, diciamo, una al giorno, purtroppo. Questa è la situazione, da qui anche all'allarme che ha suonato il presidente della Confindustria Squinzi, non è la prima volta peraltro, ma certo che noi, se facciamo appunto i conti dal momento in cui è scoppiata la crisi 2007-2008, ci accorgiamo che, insomma, abbiamo perso circa un 20% della nostra base industriale, il che per un paese che come sappiamo ha nella manifattura uno dei punti di forza più importanti, che è il secondo paese in Europa alle spalle della Germania su questo terreno, beh, insomma, questo è un problema molto serio, perché significa che questo paese può non avere più un orizzonte industriale, che è quello, diciamo, che ha decretato il nostro successo in decenni passati. e quindi è una situazione da allarme rosso. Perché diciamo il caso Electrolux diventa emblematico? Nel senso che qui c'è una multinazionale svedese che paragona i costi dello stabilimento, soprattutto di Porcia in provincia di Pordenone, con quello degli stabilimenti polacchi, e ne abbiamo parlato a lungo. Però c'è una componente anche, a mio avviso, politica in questa vicenda, non solo diciamo di scelte di una multinazionale. Sì, beh, diventa emblematico, primo diciamo perché ci dà ormai, sembrava una cosa lontana, per anni ne abbiamo parlato diciamo di questa globalizzazione come se fosse un fenomeno che quasi non ci toccasse. Adesso ce ne rendiamo conto, diciamo, purtroppo in modo più drammatico giorno dopo giorno. E, per esempio, abbiamo appreso che evidentemente la Polonia ha imparato, diciamo, a fare bene le lavatrici, cosa che invece noi probabilmente 10 anni fa non immaginavamo, invece questo oggi accade. Ma soprattutto apre una questione, come dicevi tu, politica, nel senso che questa mette a nudo la mancanza di qualsivoglia strategia di politica industriale di questo paese, che non significa questo tornare agli anni 70 con i piani di settore e dirigere dal centro che cosa deve fare un'impresa grande piuttosto che un'impresa piccola. Questo ovviamente va lasciato al mercato, però significa avere un'idea di sviluppo di questo paese, quindi dove concentrarsi. Un paese diciamo a libero mercato come gli Stati Uniti non ha impedito ad Obama di mettere a punto un piano per l'industria manifatturiera centrato sull'innovazione e per i salari adesso, come vediamo. Esatto, e che quindi, voglio dire, dà un orizzonte diciamo su dove vuole andare il paese. Noi non lo sappiamo, perché magari fosse stato diciamo in qualche modo decretato che puntiamo sull'agricoltura, no, puntiamo sul turismo, puntiamo sull'industria, sì. Puntiamo su un'altra cosa. Non abbiamo un'idea precisa, andiamo avanti con la navigazione a vista, Tra le bombe d'acqua. Allora, visto che un ascoltatore dice, ma insomma le vostre proposte quali sono? Non è nostro compito dare le proposte, però ce n'è una molto semplice. Se si decide che la manifattura piccola, media e grande è importante per questo paese, che non possiamo solo vivere di pubblica amministrazione diciamo o di servizi, ma che in questo momento la forza che abbiamo, la poca forza che abbiamo arriva dall'export e quindi anche dalla nostra capacità di vendere sui mercati, e si spera un domani anche di vendere sul mercato interno, beh, a mio avviso, ma ripeto, non faccio il politico, una scelta netta potrebbe essere di dire, bene, andiamo a ridurre le tasse in busta paga e quindi il cuneo fiscale, ma veramente non con 5 miliardi di un fondo che è già svuotato da ogni risorsa perché deve pagare anche la cassa integrazione in deroga e le emissioni all'estero, concentri le energie lì, a mio avviso, e crei un vantaggio per le imprese, ma soprattutto per i loro lavoratori, perché a parità di busta paga restano più soldi in busta paga e comunque invece permetti anche alle imprese di avere un costo minore del lavoro come oneri diciamo fiscali. Questa è la mia personalissima, molto modesta ricetta. Condividi, Guido, sì o no? Perché sto sforando ogni tempo. Sì, condivido, perché anche lo stesso commissario per la spesa, per la regione della spesa, Cottarelli, l'altro giorno ha detto, se noi concentriamo i 32 miliardi di risparmi previsti della spesa pubblica nella riduzione del costo del lavoro, in 3 anni noi rientriamo nella media europea e quindi siamo in grado di crescere. E quindi questa è la strada. Ecco, questa è la strada, insomma, che noi vediamo, poi ognuno può avere le sue idee, basta averle le idee e poi mantenerle e difenderle con forza. Grazie Guido Gentili, grazie Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.